ieri ci sono di Adala. Ma di Adala a cavallo? No, senza cavallo, perché c'è, sono sicuro che oggi è tutto quanto allagato. Pure qua mi adesso mi scende l'aria, ho visto il cielo che è nero nero. Sì, vabbè, lì non scende niente, non ti preoccupare, devo scendere qui, come ha fatto ieri, avanti ieri, capito? E quindi fa Osilo, Ositissi, Adala, Mores, quella roba lì, eccetera, eccetera, 121, fino a Macover, eccetera, eccetera. La stessa identica cosa sta facendo. È precisa identica da tre giorni, quindi i fulmini scendono lì, qui a Sassari non ci toccano a noi, perché va verso la Gallura. Verso la Gallura va? Sì, verso la Gallura, come ha fatto ieri, tale uguale, verso la Gallura, Castel Sardo, Soso, Seno, delle roba del genere, capito? A noi non ci tocca, grazie a Dio, perché se ci piglia in piedi sta tranquillo che noi siamo messi male nel centro storico. Ho capito. Comunque ho guardato dove c'è la rada fulmini, sto dicendo, sta andando verso la zona di Castelsardo, Soso, Seno, la Gallura. Fa dal centro Sardegna e va verso quella parte lì. Noi non ci tocca per niente. Sta tornando, c'è un toro, uno appresso all'altro, un fulmine, uno appresso all'altro, però qua a Sassari arriva dalla zona di Osilo e poi prende e cambia direzione. E ho capito, a chi si fa di temporale, io mi sacco l'antenna, ma lo sicuro. No, non fa niente, non ti preoccupare. C'è poco da fare temporale stasera qua. È a posto, figurati, se no vede attaccate il baracchino, no? Ehi, lo so, non accendo fulmini per il momento. Ma io ho visto tutta la mattina il cielo nero dalla parte di... come ieri, tale uguale, la stessa identica cosa, più con l'altra rada lì, ho fatto anche la foto su Facebook, basta che te la guardi, la stessa identica cosa, precisa. C'ha un tipo canale, c'ha, hai capito? Sale dalla parte di Muro, poi fa Mosa, Alghero, eccetera, eccetera, dopodiché prende e cambia, e va verso la zona di cosa? Della Gallura. Sì, ho capito. Comunque sta facendo un paio di gocce e basta, non vedo che sta facendo di altro. Adesso, dove sono io? Ma poche gocce proprio contattemi. Io ho capito. Chiama a vedere se c'è quel lavativo di Maculino Condo. Ma quello già lo sai che è un maniaco, un manico sessuale quello, cosa vuoi fare? Maniaco è maniaco è in pratica, sì. Questo Marcolino, una scena. Gatta, la una, hai capito? Poi bene, va, si fa la spesa, poi la sera va a fare, e poi alle 4 mangia, gatto. Come si fa a mangiare alle 4 e mezzo 5 gatto di pomeriggio? A me mi sarebbe venuta la diarrea. E Giulia, tu c'ha quegli orari lì, cosa vuoi ti dica? Secondo me lui guarda, la notte esce e rientra verso le 7:00 del mattino e già lo sai quando fa uno ciupucciù è stanco e quindi scende alza alle 3-4 di sera. Stamattina è entrato, infatti pensavo che era qua. Invece era sedrumido. Io pensavo cazzo che era in giro magari a donne. E invece a casa era oggi. Stamattina ci ho parlato con lui. Non ho capito, già va bene, va. Meglio così. Ok. Ho visto le FT250 da 150 euro in vendita. Sì, ma cosa se ne paga, mamma mia. Cattrice da se ne accosta, che c'ha parecchi. Già lo so già, ma ci sono due Lincoln, ci sono 100 euro. Ho visto stamattina, 100 euro due Lincoln. Due? Lincoln, 3 Lincoln, 100 euro. Sì, ma non funzioneranno. No, no, già ho visto che già sono accesi, già funzionano. E li danno 100 euro l'uno? Tutti e due, 100 euro. Poi non lo so, magari c'è mai finale trasmissione delle bruciate, cosa ne so io? Non ci vuole molto, aspetta, le due finali, 477, 20 euro l'uno, non è che ci voglia granché, no. E la coppa si fa l'affare, mi hai capito? C'è quell'altro sta vendendo 5 alimentatori, cazzo, 100 euro, cazzo, ma io? No, 150 euro, 5, no, 100, 150 euro, 5 alimentatori, tutti qui, evidentemente sono bruciati. Vabbè, basta cambiargli i finali, non è così, se no. Spendere soldi, ma vero che ti fai un bel po' di soldi una volta che lo ripari. Sì, quello sì. Senti, mi senti. Femmina fuori. Cazzo, il suo canale è... sono fuori banda, mi fa. 4460-93 punto 75. Lasciali fare che se no fanno peggio. Sì, ma non sono all'ospedale, sta tranquillo, no? Non è roba di ospedale, è roba di cosa? Di negozio. Sì, evidentemente sì. I francesi sono 4-6-106, sono infatti. Punto 25, sì, esatto. Oggi non li ascolto per niente. Ma quello che sta parlando? No. Cucù! Chi è avanti? Non fare cubacchione. Hai capito qualcuno mi sta ascoltando? Sta facendo un ricripotico. Queste cose non si fanno. Milli francese, beccato, carità, Corsica. Sono l'unico guadagno. Ma, Antonio, io me ne vado a curicarmi. Non abbiamo mai ascoltato un po', che mi faccio un pisolino, sono un sacco morto. Ci sentiamo alle prossime, dai. D'accordo, anche alle prossime. D'accordo, ci stiamo dopo, dai. Come on. c'è un casino a casa dell'acqua, non è a tu. Pronto, ci sei? Adesso ti faccio sentire come si sente. Sì, ecco, amico, mi devo sganciare, sto entrando alla Sisa, già lo sai, ci sentiamo in questi giorni, tanto abbiamo canali disponibili, giusto? D'accordo, non c'è problema, fai la spesa, non c'è problema. Viva la figa, c'hai ragione. Se non era sono proprio tu, comunque stavi a Sassari e te la porto io quella. Basta che mi dai 50 euro a me e non ci sono problemi. Adesso questo mi viene per mania qua, cazzo, come minimo. No, non mi rispondo. Cosa stai facendo? Stavo facendo il maniaco con un tipo cazzo che è in cosa? In PMR, hai capito? Giù a Stintino, a Coscia di Donna, ecco. Devo andare a pagare stanotte. Alberto ha detto che se gli fai 50 euro ti porto donna. Sentito vai. Figlia, lasciaglielo fare il maniaco, lascialo stare. Ma se mi faccio fare i soldi, faccio se gli assassa, che cazzo faccio pagare la bella, poi se la piglia in culo. Ma tutti i guasti io sono, cazzo, sono guarda. Su PMR, ecco, tutti io li trovo. Sui canali sotto sono molto attivi, lì funziona solo in FM per i tedeschi, un po' come gli inglesi hanno i canali alti con quella canalizzazione strana in FM solo. Ho capito. Copiato. Il signore. E dei bei segnali, un tedesco Santiago 9 non è dei più forti. Per la cronaca io sto andando a batteria, perché la devo scaricare prima di ricaricarla, quella batteria al piombo per allarmi, no, quelle a parallelepipedo, 12 volt mi pare 9 ampere, 9 o 10 ampere, una cosa del genere. Ho capito. Hai visto, bella passata di acqua, dai. Naturalmente non è nubifragio, per fortuna, da noi. Migliore ulteriore. Andà bene, Mela. No, non ho visto nessuna, sono a casa. Non ho visto nulla. Manco si sente qua quando ci sono le finestre chiuse, siccome sono i venti quelli grossi, no? Non si sente nulla da fuori. Proprio barricato, no vabbè, io sono claustrofobico, quindi uno spiraglio lo devo lasciare, e poi mi piace guardare in strada quando piove, mi piace vedere il rigagnolo che si forma al bordo strada. Cazzo, sei maniaco proprio tu. Come quando da bambini si faceva la barchetta di carta, la mettevi nel rigagno, la vedevi sparire all'orizzonte. Se non è possibile. Tutte da te le sento queste cose. Sì, tutto strano, sono alternativo, diciamo, dai. È arrivata quella roba lì. Non so se te l'avevo detto. No, te l'avevo detto stamattina, sì, già te l'avevo detto, ancora lo devo spacchettare, diciamo. Sì, aprire le buste, provare le dimensioni e tutto. Sì, ho capito. Te la posso fare una bassa, per cortesia, se non ti disturbo. Ehi, chiama, chiama. Sì. No, le strisce sono difettose. Quando ti segnerò la macchinetta vuol dire la striscia difettosa, no? Marcolino! Sentiamo, avanti. Ok, ciao a tutti, buona festa a tutti, la stazione sceriffo in agguato, mi dica. Ciao sceriffo, se non ho capito male, buonasera. Dove sei? Io sono leggermente a Porto Torres. Sì, sta arrivando. 9.5, 9.10. Sì, a Sassa, di chi sei che non riesco? C'è troppo quel RM. Luca dalla Sassari, Lima Delta, per essere esatti. Cosa stai usando? 4,50? Cosa? No, non è un 4,50, è un FTDX 1200. Stavo uscendo con la radio chiave. Solo che a casa c'è troppo QRM, la gente da fuori sento. C'è propagazione probabilmente. E beh, sceriffo, buonasera. Buonasera, amico. Prego, avanti, noi siamo qua a casa. Dove a casa? In campagna? Buonasera anche l'altro amico, Mario Pertaterres. Sì, ho già parlato con lui, ma non mi ricordo la sigla. Mannaggia la miseria. Comunque a te di nuovo, vai. Mario. Campagna. Ciao Mario, Luca, sono Luca Flipper, latte dolce. Buonasera, ben sentito. Ciao Luca, buonasera, ben sentito anche a te. Poi mi direi che ho risolto. ecco qua. Allora, sceriffo, dov'è che sei? Adesso sono a casa, QTH, Campagnolo. Ah, ecco, e mette le pecore. Bene, bene, sono contento, dai. Sono contento, saluto anche gli amici se ci sono. Bene, Luca, di nuovo per te, dai. Sì, qua arriva bene comunque, qua arriva bene. Sì, vabbè, lì esce forte, c'è una stazioncina lì con un'antenna piccolina, insomma, dai, fa quello che può. Sceriffo, dove sei finito? Oh, saluto un attimo che c'ho la macchina che sta facendo colpi. Oh. Addirittura, mannaggia, ohia. Siamo a posto, siamo, va, butta via tutto, va. Vai Luca, riprendi. Come ascolti, Luca? Benissimo, qua benissimo. Anche lo sceriffo ascolto bene. Vuol dire che è una zona buona la sua. Lui è mai vicino qua, insomma non è molto lontano. Lo sento benissimo. Va bene, arrivi bene anche tu. Segnale sempre la 10. Benissimo. Sì, ci sono con i watt bassi di questo apparecchio. Cappa. Bene bene. Molto bene. Ok, dai. Io sono entrato solo per salutarvi che ho sentito l'uscerino, ma se no rimanevo là in accordante, avevo il volume basso, quindi poi sono con una parata che non lo so se è qui è scato un pochettino, vabbè, sarà il caldo dell'estate adesso che arriva, adesso quando si muove un po', perché tutto è ventolato, però è mannaggia la miseria. Va bene, ok, dai, che se l'avete sentito Luca, anche a te sceriffo, ci aggiorniamo, rimango qua in ascolto. Avanti pure chi tocca. Vedi se va bene anche questo piccolo apparecchio, Mario, capo. Dimmi, sei sempre tu, Luca? Sempre io, K. Segnale 7, però la radio non è come quella di prima. No, questo è un birichino, un anno 48. C'hai anche il bip. Dunque, la radio... Sì, è comprensibile, però insomma era meglio quella di prima, è calato un bel po', diciamo, forse risulta anche un po' più nasale. Guarda, sono abbassato un po' il letto, vedi un po' se è migliorato. No, negativo, sempre quella, eh. Vabbè, tutto elaborato questo, capito, per fare casino. Cappa, ripasso con l'altro, Mario. Cappa, no, comunque sì, il palacchino va bene, però rispetto alla modulazione che avevi prima, chiaramente è totalmente differente. Però il baracco va bene, funziona bene al 100%, si sente bene lo stesso. Va bene, signori, vi saluto di nuovo, statemi bene. Buona serata. Ciao, ciao, sono ritornato con l'altro. Eia. Va bene, avanti, sceriffo. Ok, io sono potuto andare, sono riuscito poco a poco a mettere a posto qualcosa che lo piccava un po'. Hai capito? Ok, ciao Mario, ci sentiamo anche alla collega. Alla prossima, ciao a tutti. Ciao sceriffo, ciao anche a Mario. Ciao. Ciao, buonasera, ciao Luca, ciao sceriffo, ci salutiamo alle prossime, ciao ciao. Marcolino, ancora in confessionale, sì. Ma quanti anni mica, ci siamo lì. Ciao da Chiara. Sta lì. Attenzione, grande fratello. Oi. E cosa ti fa male? Nulla, quasi pronto il caffè, decaffeinato, però è strano, è nero questo caffè, come c'è dalla caffettiera. Non ho tanto. Cosa vuol dire? Tostatura scura? Che è tostato scuro. Sì, peraltro non mi piace a me, perché è un caffè che abbiamo aperto da un po', anche se era mezzo chiuso, ma non mi piace la qualità proprio. Ero abituato alle capsule della pasta a modo mio là, anche se erano non originali, però erano dolci almeno, capito? Questo è un po' malognolo, è proprio tostatura scura, si sente. Peccato che quelle mie non vanno bene per quella a modo mio, la mia è la vassa stessa, infatti il caffè lo prendo proprio alla vassa io. Sì, mi sta borbottando adesso, mamma ha dato la camomilla col limone e un piglio di caffettino, poi con molta calma metterò la moto dentro. Così si è lavata, che c'è la cacca di piccione pure sopra, che sa che si sia lavata bene. Ma c'è un caffè alla lavaccia duia. Adesso spengo la caffettiera. Ma perché non vai alla lavata che te la danno la macchinetta? Io sono andato alla lavata e mi hanno dato la macchinetta e il caffè lo prendo da loro. La mia fa il cappuccino, il ginseng, tutto quanto. A me mi avevano consigliato il caffè Borbone, però a me non lo so, ha un sapore un po' diverso dal caffè che bevo solito commerciali, no? Che caffè commerciali. Non mi è piaciuto più di tanto, ho fatto fatica a finirlo. E allora prendo quelle capsule solite, che marca era? Marca Telido, l'Eurospin, e poi il produttore è lo stesso, il sapore è buono, sono abbastanza dolci, e se mi dai il caffè amaro, che ci metti due di zucchero, tre di zucchero, e se è ancora amaro, a me non piace così. Sì, io lo devo prendere o con dolcificante o una puntarina di nuovo di zucchero, solo per non bello amaro. Mamma si sta limitando molto nello zucchero, vuole il caffè con metà zucchero, la camomilla la prende addirittura senza zucchero, cosa che non riuscirei a fare, e così dai. anche questa giornata è andata. Devo ancora scartare il pacchetto. Ne giù una gana. Vabbè dai, io vado a farmi il caffè, così tu ti puoi bere il tuo in santa pace, già sono qui intanto. Vedi, tanto è bollente ancora. È bollente, lo facevo sfasarci, non lo diceva, il caffè l'ha bevuto bestemmiando, cioè se lo beveva bollente, a micro sorsi e imprecando contro Giuda, però se lo prendeva così. A me bollente, bollente non mi piace lo stesso. Come siamo messi a livello? Mamma mia. Sei brava. Quando è caldo caldo. Ma... invece mia moglie le mangia a fuoco. Ma... no, mi piace, è bevibile, non mi voglio scottare la lingua. Ok, va bene, buon caffè Natale, dai, io poi credo che non riprenderò per oggi. Dovevo fare varie cose, mettendo TV, insomma, va bene, dai. Ciao, buonanotte, ciao. Buonanotte, la spengo, se non c'è nessuno ho detto a fare qua, e mi cubico, così mi riposo al Marco. Ciao, buonanotte, ciao. Ciao Marco, alle prossime.